cos'è il sacro e che cos'è un luogo sacro? Simboli, storia e storia che si compenetrano, luoghi in cui i credenti delle diverse fedi si raccolgono per comunicare con il divino, luoghi spesso in pericolo, luoghi che diventano a volte campi di battaglia dove ideologie e fazioni diverse si combattono. E la partita a volte non ha nulla di religioso. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. These actions will modify the national monuments of both Bears Ears and Grand Staircase Escalante. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questa è una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano. In questa giornata di festa vi porgo i saluti, gli auguri di buone feste anche da parte di Elisa Pancaldi e Antonio Taglia, che sono in redazione a confezionare con me questa puntata, e Carmelo Lauricella, che in regia, e a lui spetta la grammatica musicale e la ritmica di questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano. Allora, mentre il mondo cristiano celebra il Natale, noi di Nessun Luogo vi proponiamo una riflessione sul senso del sacro e sui luoghi sacri del mondo, magari quelli più inaspettati, quelli meno conosciuti o quelli noti che però scatenano appunto tensioni geopolitiche. Luoghi simbolici, luoghi storici, luoghi, lo dicevo, in cui i credenti delle diverse fedi evidentemente si raccolgono, ma luoghi che altrettanto spesso sono in pericolo, luoghi che scatenano tensioni, in cui si giocano partite geopolitiche, di politica interna, a volte economiche, e altrettante volte il senso del sacro in queste situazioni evapora, sottoposto al gioco di altre divinità. Oggi, se posso sintetizzare, nessun luogo sacro sarà lontano. Le coordinate social per interagire con noi. Se questo programma vi piace, cercate la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, cliccate pure mi piace, commentate, ponete critiche o domande, rilanciate i nostri tweet, gli account sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Mi sono andato a spulciare sulla Treccani, quasi un'operazione di modernariato culturale, la definizione di sacro. Sacro è ciò che è connesso più o meno intimamente con la divinità, con la religione, con i suoi misteri, e perciò impone un particolare atteggiamento di riverenza, così recita appunto l'enciclopedia Treccani. Forse potremmo dire che non la stessa attenzione è stata posta dal presidente americano Donald Trump con una delle sue ultime uscite di politica estera, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico, lo spostamento della ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, la questione israelo-palestinese è tornata da giorni caldissima dopo questa mossa, e non potevamo non partire da lì. Potevamo che partire da Gerusalemme in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, e non potevamo partire da Paola Caridi, giornalista, scrittrice, docente universitaria, oramai anche donna di teatro, fresca di tour statunitense per la pubblicazione in inglese del suo libro Gerusalemme, città senza Dio, edito da Feltrinelli nel 2013. Paola Caridi, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno e grazie per avermi invitato. La cronaca ci restituisce ancora una volta una nevralgia in questo luogo, che è un luogo sacro per eccellenza. Prima però di analizzare alcune sue dinamiche molto molto interessanti, ti chiederei di aiutarci a capire alcuni dei suoi luoghi, perché spesso nei radiogiornali, nei telegiornali o sui giornali vengono date per scontate alcune informazioni. Si parla della spianata delle moschee, si parla del muro del pianto, si parla della porta di Damasco, ma forse non a sufficienza raccontiamo il valore e il significato di questi luoghi. Partiamo dalla spianata delle moschee, Paola Caridi. Sì, è vero, di Gerusalemme sembra che conosciamo molto, ma forse conosciamo solo il mito che è dentro di noi, e poi conosciamo poco le strade e le piazze. La spianata delle moschee è una delle due grandi piazze della Gerusalemme antica. E però una premessa per il viaggiatore o il pellegrino. Sì. La città vecchia è una tessera nell'enorme mosaico di Gerusalemme. Se si guarda una mappa di Gerusalemme, consiglio caldamente di riprendere in mano le cartine, le mappe delle città, la città vecchia è un piccolo quadrato in una mappa che parla di una città che ha 900.000 abitanti. E dunque noi stiamo parlando di un luogo non solo piccolo, ma del luogo in cui la città si esprimeva fino alla fine dell'Ottocento. Fino alla fine dell'Ottocento la città era la città vecchia. Sì. Non si chiamava città vecchia, era la città di Gerusalemme. Ora noi la chiamiamo la città vecchia perché in fondo, come un centro storico in qualsiasi altra città, contiene il racconto appunto della sua memoria e della sua storia. All'interno delle mura antiche di Solimano il Magnifico ci sono i luoghi poi del contendere, i luoghi sacri del contendere. La spianata delle moschee è la spianata che contiene due importantissime moschee. Una, la più conosciuta come nome, ma non dal punto di vista architettonico, la moschea di Al-Aqsa, la moschea lontana, il terzo luogo santo dell'Islam. Nei primi anni dell'Islam si pregava non verso la Mecca, ma verso la moschea lontana, cioè verso Gerusalemme. Sì. E su questa spianata poi c'è il logo di Gerusalemme, il brand, il simbolo, e cioè la cupola della roccia dorata. Sì. Circondata alla sua base di questi elementi turchesi che la fanno il luogo più riconoscibile di Gerusalemme, che è un luogo in presenza per i musulmani, cioè il luogo da cui si dice che è partito il profeta Muhammad nell'andare verso il paradiso, visitarlo e tornare indietro. Per gli ebrei invece è il luogo dell'assenza, cioè quella cupola dorata rappresenta ciò che non c'è più, e cioè il Tempio. Sì. Il Tempio che è stato distrutto dai romani nell'80 d.C., da lì è iniziata la diaspora, l'ebraismo che è stato costretto a lasciare la propria terra e a diffondersi per il mondo. Piccola pausa con Paola Caridi, le informazioni sul traffico, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano, vi riporto a Gerusalemme. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... No mamma, basta con questi open day, decidi tu che scuola devo fare, io non lo so cosa mi piace studiare, ok? E invece è bene che i nostri ragazzi lo scoprano cosa piace loro studiare, perché è arrivato il momento di scegliere la scuola superiore. Come districarsi allora fra licei, tecnici e professionali, fra open day, consigli orientativi e l'immancabile passaparola fra genitori sui WhatsApp di classe? Sono Maria Piera Ceci e il 30 dicembre alle 11 vi darò una mano insieme ad esperti, presidi ed insegnanti nello speciale Scuola, quale scelta per i nostri figli? Sempre su Radio 24. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, questa è una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, il giorno in cui si celebra il Natale. Noi vi proponiamo un viaggio attraverso altri luoghi sacri, magari più sconosciuti, più inaspettati, luoghi sempre comunque che sono causa di frizioni o di tensioni. Non potevamo, la cronaca ce l'ho, ha imposto non partire da Gerusalemme, città, luogo sacro per eccellenza, che è tornato al centro di grandi tensioni dopo alcune mosse di Donald Trump, presidente statunitense. Siamo con Paola Caridi, giornalista, scrittrice, esperta di questa città, la sua Gerusalemme, città senza Dio, è un libro imperdibile se volete comprendere meglio le dinamiche che appunto albergono in quella città. Dicevamo con Paola Caridi che la spianata delle moschee è un luogo esclusivo, evidentemente, così come è esclusivo dall'altra parte il muro del pianto. Sì, e dall'altra parte vuol dire accanto alla spianata delle moschee. Sì. È una cosa che spesso non si racconta ai viaggiatori, e cioè che le due piazze sacre della città vecchia, non escludo quella cristiana, poi la lascerò per ultimo, sì. Le due piazze sono una accanto all'altra e descrivono bene la Gerusalemme appunto della partizione, perché non sono una distante dall'altra o assieme, ma sono una accanto all'altra, cioè la spianata delle moschee poco più in basso, le grandi mura che sorreggono la spianata delle moschee sono il muro del pianto per gli ebrei, e lì è stata costruita una plaza da Moshe Safdi, uno dei più grandi architetti del mondo, che ha reso quella piazza, quel luogo, direi quel luogo di fronte al muro del pianto, il luogo in cui si celebra anche l'ebraismo che torna a Gerusalemme. Sì. Quella è la plaza che è diventata simbolo. Quella plaza è stata però, anche in questo caso la storia si racconta in due modi a seconda delle persone che si ascoltano, e cioè dei gerusalemitani che si ascoltano. Quella plaza è stata costruita dopo il 1967, la conquista di Gerusalemme da parte degli israeliani. Nel luglio del 1967 comincia la costruzione, cancellando però un quartiere storico di Gerusalemme, cioè il quartiere Mugrabi. Quindi anche in questo caso è una piazza del contendere. Sì. Questa volta per i musulmani nei confronti degli ebrei. Poco distante, poche centinaia di metri, c'è la piazza dei cristiani, che però è una piazzetta piccola di fronte al Santo Sepolcro, mentre le due grandi piazze, quella del cosiddetto bacino sacro, descrivono la divisione di Gerusalemme molto più di altri luoghi. E questo vuol dire che è lì la domanda: se Gerusalemme non ha una piazza condivisa, una piazza che contenga tutti gli abitanti di Gerusalemme, anonimi, con fedi o senza fedi, allora sì. Gerusalemme è ancora una città? E in qualche modo è una delle domande, no, che ti poni nel tuo libro. Il titolo è provocatorio, evidentemente, Città senza Dio. C'è anche un altro luogo, la Porta di Damasco, che assurge spesso agli onori della cronaca per episodi di violenza. Perché tra le varie porte che permettono di accedere a Gerusalemme Est, proprio la Porta di Damasco è quella che molto spesso vede episodi di cronaca tragici? Allora, per due motivi. Un primo motivo perché anche in questo caso le mappe sono importanti, e cioè Mea Shearim, il luogo dell'ortodossia più ortodossa, sì. Scusatemi il gioco di parole, vede buona parte dei fedeli che vanno verso la piazza antistante al muro del pianto passare attraverso la Porta di Damasco, quindi è un luogo di frizione. Sì. Nella memoria palestinese però la Porta di Damasco è il cuore della città araba, è il luogo del mercato, quindi il luogo della contaminazione, che però non è una piazza ma è una porta. Ed è quella che in arabo si chiama la Porta della Colonna, perché anticamente, quando i romani occuparono la Palestina, sì, e Gerusalemme, costruirono questa colonna che doveva appunto ricordare l'imperatore, che era l'inizio della strada che percorreva tutta la città, il cardo, che rappresentava il cuore di Gerusalemme e il cuore, in sostanza un agorà che però era mercato, in un tempo in cui a Gerusalemme era stato cambiato persino il nome e veniva chiamata Elia Capitolina. La Porta della Colonna rimane nella memoria palestinese la porta del mercato, il luogo dell'incontro, il luogo dello scambio, assieme alla Porta di Jaffa, ma soprattutto la Porta di Damasco, che è ancora il luogo dei palestinesi. E poi da lì è una delle porte da cui si accede non solo alla piazza di fronte al muro del pianto, ma anche alla spianata delle moschee. Ci sono vari modi di arrivare alla spianata delle moschee, uno dei quali è attraverso la Porta di Damasco. Io ringrazio tantissimo Paola Caridi per essere stata con noi. Lo ricordo, giornalista, scrittrice, teatro, università, insomma tante le sue attività. Però leggete il suo Gerusalemme, Città senza Dio, Feltrinelli 2013. Grazie mille Paola, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Ci Stiamo sempre seguendo l'attualità. Da mesi la questione Rohingya preoccupa la comunità internazionale. Parliamo di una comunità musulmana che viveva in Myanmar, l'ex Birmania, che perseguitata dalla maggioranza buddista è fuggita in molte altre nazioni del sud-est asiatico. Una vicenda che ha generato una bufera sul premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, accusata di ignorare i massacri. I luoghi sacri dei musulmani qui erano, sono tanti, la guerra li ha praticamente polverizzati. I più attenti ricorderanno anche la visita di Papa Francesco qualche settimana fa in Myanmar. Le autorità avevano chiesto esplicitamente che la questione, addirittura il termine Rohingya, non fosse menzionato. Alessandro Urcic, giornalista freelance da Bangkok in Thailandia, si è molto occupato della questione Rohingya. Alessandro, fra le altre cose, è corrispondente per l'ANSA dal sud-est asiatico. Alessandro Urcic, ci racconti cosa sta accadendo nella terra sacra dei Rohingya? La regione è in sostanza lo stato di Rakhine, o anche detto Arakan, c'è stato diciamo un cambio fonetico alcuni anni fa, ufficiale. Non è una terra sacra come la possiamo immaginare, non so, Terra Santa, Palestina, Israele, però è una terra sicuramente divisa da centinaia d'anni, se vogliamo, perché è una terra dove sia musulmani che buddisti hanno condiviso per secoli ormai. È diventata però, come dire, sempre più divisa per colpa della nazionalizzazione messa in atto dalla dittatura birmana per oltre mezzo secolo, e in qualche maniera tutto questo si è unito negli ultimi 15 anni con la paura, diciamo, dell'ascesa globale dell'Islam. Queste due paure, sfruttate ad arte, se vogliamo, dalle autorità birmane in quello che è uno dei territori più poveri della Birmania, ha portato a una crescita della tensione tra i buddisti locali e i musulmani di etnia Rohingya, che è esplosa, come abbiamo visto negli ultimi mesi, con un vero e proprio pogrom. La ONU l'ha chiamata pulizia etnica, un esempio da manuale di pulizia etnica. Sono accuse che lo Stato birmano, la stessa Aung San Suu Kyi, nega, che però qualsiasi osservatore indipendente ormai non mette più in dubbio. C'è anche chi si spinge e parla fino a parlare di genocidio. Il territorio in sé non ha una rilevanza, come dire, religiosa, è però una faglia sismica, se vogliamo, tra l'Islam. Quindi da una parte l'Asia del Sud, diciamo India, Bangladesh, Pakistan, e l'Asia del Sud-Est asiatico, e quindi buddismo. A questo si sovrappone anche il fatto che questo è un territorio che in Italia passa un po' come guerra tra musulmani e buddisti, ma c'è diciamo una terza componente, perché i buddisti che abitano in questo territorio del Rakhine sono appunto dell'etnia Rakhine, e a loro volta ora in qualche maniera hanno una specie di unione ideologica con il resto della Birmania buddista contro i Rohingya. Ma prima che esplodesse questa crisi, loro hanno un risentimento storico verso i birmani, verso la maggioranza birmana, diciamo due terzi dell'etnia del paese sono di etnia birmana, perché a loro volta questo è un territorio che fino a fine Settecento era un regno indipendente e poi è stato invaso, sottomesso, soggiogato dai birmani con stragi, massacri che l'hanno depopolato a fine Settecento. Adesso una piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Sacro Sarà Lontano. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Per me il desiderio è qualcosa che si vuole ricevere o comprare. Per me l'amore è quando vuoi bene ad una persona o ad una cosa e fai il possibile per stare con quella cosa o qualcuno. La paura per me è un sentimento legato anche all'amore in un certo senso, perché noi abbiamo paura quando non vogliamo perdere qualcosa. Amore, paura, desiderio. Tre parole che punteggiano le giornate dei più piccoli. Tre parole che scopriremo meglio con l'aiuto dei più grandi. Torna a terra in vista con Le emozioni spiegate a mio figlio. Scienza e poesia, storie e mondo animale, sentimenti ed esperimenti. Telmo Pievani e Federico Taddia vi aspettano il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio alle 9. Terra in vista, per delle feste ricche di emozioni. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci. Con me ci sono Elisa Pancaldi, Antonio Tali in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Questa è una puntata speciale in cui stiamo ruotando il mappamondo a caccia di luoghi sacri, quelli meno noti, quelli magari meno conosciuti, ma che, ahi noi, molto spesso scatenano crisi politiche o addirittura veri e propri conflitti. Però, Carmelo Lauricella, quest'oggi è Natale e anche noi volevamo fare un piccolo omaggio musicale ai nostri ascoltatori. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with il nostro personalissimo e un po' irriverente omaggio, se volete, al Natale qua da parte di Nessun Luogo è Lontano, così vediamo se gli ascoltatori che mi dicono che sono buonista anche stavolta riusciranno a mandare un SMS di questo tenore. Allora, scherzi a parte, continuiamo in questo viaggio. Adesso tocca andare negli Stati Uniti e in particolare in Utah. I will sign two presidential proclamations. These actions will modify the National Monuments designations of both Bear's Ears. La voce che sentite l'avete evidentemente riconosciuta, è quella del presidente statunitense Donald Trump. Era lunedì 4 dicembre quando Trump pronunciava queste parole e firmava due decreti che andavano a limitare i territori di due importanti siti naturali, Bear's Ears e Grand Staircase Escalante, la più grande o quasi eliminazione di aree protette nella storia statunitense. Sono vasti e ricchissimi territori, ricchi di reperti storici e luoghi ritenuti sacri dalle tribù indiane native. Nel sito di Bear Ears, per esempio, si contano più di 100.000 tra reperti e luoghi sacri per la popolazione Navajo, importanti tanto quanto qualsiasi reliquia cristiana o muro, per esempio, di Gerusalemme. Di fatto Trump ha revocato le decisioni prese dai suoi predecessori, Obama e Clinton, che avevano usato l'Antiquities Act del 1906 proprio per espandere queste aree protette dei due siti per lasciare spazio allo sfruttamento territoriale. Su questi luoghi, infatti, sono presenti numerose miniere abbandonate che rappresentano evidentemente una possibilità di business golosa per tante imprese private. Le popolazioni indiane promettono di dare battaglia, di portare la causa in tribunale. Cerchiamo di capire meglio cosa sta accadendo in Utah, in questo stato degli Stati Uniti, e quanto il profano potrebbe irrompere nel sacro in questo scenario. Lo facciamo con Stefano Luconi, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Firenze. Ma partiamo col professor Luconi da una definizione di questi due luoghi, il Bear's Ears e il Grand Staircase Escalante. Che cosa sono esattamente? Dunque, sono, viste da una prospettiva più laica, una serie di siti archeologici dove si conservano, per esempio, luoghi di sepoltura, luoghi cerimoniali che sono stati utilizzati da una serie di nazioni native come i Navajo, gli Hopi, gli Ute Indian e via di questo passo, che hanno quindi la volontà di preservare la memoria per la loro identità, per la loro identità etnica. Ed è stato proprio su pressioni dei rappresentanti di queste nazioni autoctone che nel dicembre del 2016, quindi a pochi giorni prima della conclusione del suo mandato, Obama ha creato questo monument nazionale proprio per tutelare questi luoghi e quindi il valore, il loro significato per le nazioni native. Ecco, il provvedimento di Donald Trump, fondamentalmente, adesso lo riduco in termini forse un po' manichei, è quasi un esproprio per ragioni prettamente economiche, perché questi territori, oltre a rappresentare dei santuari per le tribù native a cui lei faceva riferimento, hanno anche una grandissima ricchezza nel sottosuolo. Ecco, siamo di fronte a un caso in cui il profano ipertrofico si va a mangiare il sacro, o mi sbaglio? Decisamente sì, perché come ci sono state delle pressioni da parte delle nazioni indigene, ci sono state pressioni da parte di aziende energetiche che intendono sfruttare le ricchezze del sottosuolo di questi luoghi per quanto riguarda la possibilità dell'estrazione del greggio, per quanto riguarda la possibilità di estrarre gas naturali. Se vogliamo, il sacro si ferma in superficie, il profano invece affonda nel sottosuolo, e in un'amministrazione che è molto incline alle pressioni del profano, il profano cerca, diciamo così, di affermarsi. Sulla questione dell'esproprio io avrei qualche riserva, perché in un certo senso, come il presidente, figura istituzionale, ha tutelato questi luoghi, sia pure per pochi mesi, perché la decisione di Obama risale a esattamente un anno fa, e lo stesso presidente, come figura istituzionale, può riaprire parte di questi luoghi al loro sfruttamento, appunto, per fini profani. Il problema giudiziario, perché poi si aprirà sicuramente un contenzioso, i Native Americans sono pronti a fare ricorso contro la decisione di Obama, e quanto un presidente possa annullare la decisione di un suo predecessore. Poi c'è un'altra questione, professor Luconi, perché leggendo un report della CNN si legge quanto, insomma, per dare anche un'idea, una dimensione di quanto cari possono essere questi luoghi sacri alle tribù indigene, si fanno paragoni con il Vaticano, per esempio, o qualsiasi altro muro, persino il muro del pianto a Gerusalemme. Noi non ci sogneremmo mai in Occidente di, come dire, piegare il credo di qualche comunità di fronte alla presenza di un giacimento petrolifero o di gas, eccetera. Siamo di fronte comunque a un rapporto di forza che è sproporzionato in partenza. Sì, è un rapporto di forza sproporzionato in partenza, in considerazione della mancanza di sensibilità da parte dell'amministrazione Trump nei confronti di interessi che non siano configurabili nell'ordine dell'economia e della finanza. Ci sono altri, tanto per moltiplicare gli esempi, ci sono altri casi di national monuments che hanno una valenza per l'identità degli statunitensi non discendenti dagli autoctoni, perché per esempio il luogo dove sorge la Statua della Libertà all'imboccatura del porto di New York è un altro national monument che nessuno si sognerebbe di cancellare, anche perché lì non c'è nessuna risorsa del sottosuolo da poter impunemente sfruttare. Insomma, si potrebbe sintetizzare dicendo luoghi sacri, alcuni un po' più sacri degli altri, e quindi a seconda delle convenienze geopolitiche, in questo caso economiche, insomma, si sacrifica, e scusate il gioco di parole, un po' di sacralità in omaggio, appunto, di un altro dio, il dio denaro. Adesso non voglio essere un po' patetico o retorico in questa descrizione. Decisamente sì, e poi vorrei aggiungere, senza togliere niente ai Native Americans, che sono queste aree, sono aree in cui ci sono piante e animali che andrebbero tutelati, in quanto non sono rappresentati o sono scarsamente rappresentati in altri luoghi degli Stati Uniti. Cioè c'è anche una volontà di conservazione del patrimonio naturale di questi luoghi in termini di fauna e di flora, e anche qui c'è un possibile contenzioso, perché secondo l'amministrazione Trump, in particolare secondo il segretario degli interni Ryan Zink, in realtà queste specie specifiche dello Utah sarebbero presenti anche altrove in un numero, in un'entità ragionevole da poter potenzialmente consentire la loro estinzione nello Utah. Chiarissimo. Grazie mille, professore. Come sempre, è stato un piacere ospitarla. È un piacere mio. Grazie. Buone feste. Grazie. Buona giornata e buon lavoro. Grazie mille. Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. E quando vi dicevo che in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano stiamo facendo ruotare il mappamondo, lo dicevo sul serio, perché adesso vi costringo veramente a un viaggio molto molto lungo, perché in questa ricognizione dei luoghi sacri che sono messi in pericolo, che vengono strumentalizzati dalla politica o dall'economia, dobbiamo andare in India. E se una struttura geologica naturale, se una lingua di terra, se un ponte, un gigantesco importante manufatto divino diventasse una formidabile leva politica? Andiamo quindi in India a capire che cos'è il ponte di Rama, e lo facciamo con Alessandra Consolaro, docente di lingue e letterature del subcontinente indiano all'Università di Torino. Sì, il Ramsetu o ponte di Rama, che dalle nostre parti è più noto come il Ponte di Adamo, è una conformazione geografica che si trova nell'Oceano Indiano fra la parte più settentrionale, meridionale dell'India e il Sri Lanka. È fino al 1480 abbiamo documentazione che era proprio una striscia completamente emersa dall'acqua, ma poi un ciclone la sommerse. E il motivo per cui è ritenuta molto sacra è che è menzionata per la prima volta nel famoso poema epico sanscrito Ramayana, dove viene costruito, si dice, da Rama, il dio Rama, che deve attraversare il mare per poter raggiungere l'isola di Lanka per liberare sua moglie che era stata rapita dal re demone di Lanka. Per cui ancora oggi chiaramente i devoti ramaiti e hindu in generale, insomma, danno molta importanza a questo luogo, che però dal diciamo già in epoca coloniale, ma soprattutto diciamo arrivando oggi all'attualità dal 2005 in avanti, è tornato diciamo alla cronaca, perché è oggetto di un progetto di costruzione di un canale per favorire la navigazione. Questa è una faccenda molto controversa, perché comunque il progetto di canale è pensato per navi che sono molto più piccole di quelle che in realtà si muovono in questi mari oggigiorno, e inoltre pone dei grossi problemi per quanto riguarda l'ecologia. Non solo, nel 2007 l'Archaeological Survey of India ha dichiarato che non c'è nessuna base storica per tutto quello che è la storia del Ramayana, e invece attualmente il direttore dell'Indian Council for Historical Research ha annunciato che vuole fare uno studio indipendente per valutare se questa striscia di terra è stata costruita, diciamo, da mano umana oppure no. Quindi tutto questo è diventato chiaramente un caso politico, soprattutto a livello regionale, perché gli stessi partiti del Tamil Nadu, che è lo stato di questa zona, si sono messi a litigare su tutto questo. E poi ovviamente per lo Stato centrale, che attualmente è condotto, diciamo, da un partito che possiamo definire di orientamento fondamentalista hindu, e che chiaramente sposa la teoria invece dei devoti. In che modo il BJP, il Partito del Popolo Indiano, sta cercando di rinnovare l'immagine del paese nel mondo? Sentite ancora la professoressa Consolaro. è un po' un tentativo di giocare la carta dell'India, che è una marca, che è una nazione, ma è una marca. E infatti lo vediamo, ad esempio, questo è stato visibilissimo nella famosa campagna dell'Incredible India, che è stata una così felicissima campagna per il turismo. Un po' meno, diciamo, ha successo il tentativo proprio di far diventare l'India una superpotenza regionale, un po' perché appunto c'è la vicinanza della Cina e sappiamo che insomma le relazioni bilaterali fra i due paesi sono tranquille, ma insomma sono in discussione, e dall'altra parte appunto perché la situazione economica indiana è tale per cui è vero che è la più grande democrazia del mondo dal punto di vista forse dei numeri, ma dal punto di vista diciamo della democrazia effettiva forse ci sono ancora dei grossi problemi, perché sappiamo che insomma ci sono grossi problemi di malnutrizione, povertà e insomma che vanno ancora risolti. Carmelo Lauricella, Volta Pagina ci fa capire immediatamente che il nostro viaggio prevede una nuova tappa. Vogliamo chiudere con una provocazione questa riflessione sui luoghi sacri. Vogliamo raccontarvi come a volte anche il male si possa impossessare del sacro, il male possa occupare il luogo del sacro. Raccoglie simboli e liturgie, li elabora, li piega, li trasforma in formidabili strumenti di consenso, di propaganda e legittimazione. Una Madonna ossuta e orrorifica è il simbolo di tutto questo. Andiamo in Messico con la Santa Muerte. Santissima Muerte, gran signora de luz, yo te invoco para que alumbres mi trabajo y mi economía. Tú que eres y serás mi protectora. Danos fuerzas para salir adelante. Santísima Muerte, no te pedimos riquezas, sino una vida. Fabrizio Lorusso, giornalista freelance, corrispondente per Il Manifesto, ricercatore universitario a León, conosce molto bene tutte le dinamiche che ruotano attorno al mondo dei narcos e non solo. Ebbene, c'è spazio in quel mondo criminale anche per profonde e importanti liturgie. La Santa Muerte, attenzione, non è una divinità, non è un culto che è legato solo esclusivamente al mondo criminale, però il mondo criminale se ne è impossessato con una certa disinvoltura. Tanti in qualche modo associati al mondo del narcotraffico sono diversi, alcuni sono addirittura santi approvati dalla Chiesa, cioè santi cattolici come San Giuda Taddeo, e altri sono santi popolari non approvati dalla Chiesa, anzi combattuti dalla stessa Chiesa cattolica in quanto fuori appunto dalla dottrina, per esempio San Jesús Malverde, santo protettore dei narcotrafficanti, e la Santa Muerte, che non sono appunto delle figure vissute realmente, ma una rappresenta la morte, diciamo, santificata e sintetizzata dalla figura della parca con il saio francescano, la falce, il mondo in una mano, e quindi questa figura scheletrica che conosciamo bene anche in Europa, ma che qui è diventato un santo popolare. E d'altro canto San Jesús Malverde è un personaggio mitico, leggendario dello stato del Sinaloa, che non si sa nemmeno se sia vissuto realmente, ma ecco, poi la gente inizia a santificarli, a credere in loro, a chiedere miracoli e poi va oltre, chiede protezioni speciali, chiede protezioni anche per operazioni a volte illegali, per protezione durante i combattimenti con altre gang, e quindi ha iniziato ad attrarre anche il, diciamo, il mondo del narcotraffico, della delinquenza organizzata e le gang. Sono santi tutti e tre, San Giuda, San Jesús Malverde e la Santa Muerte, abbastanza popolari nelle prigioni, per esempio, tra alcune categorie di migranti, e quindi si sono diffusi abbastanza nella frontiera con gli Stati Uniti e anche negli Stati Uniti. In questo senso sono santi popolari borderline, li possiamo definire, perché sono molto famosi tra gli strati, le classi sociali, se vogliamo, più basse della popolazione, non necessariamente i delinquenti, però alcune figure chiave del mondo del narcotraffico, eccetera, li hanno adottati, quindi poi l'immaginario che si è creato è anche quello di santi del narco legati ai bassi fondi, eccetera, riprodotti anche dai media, dalla TV, dalle serie statunitensi soprattutto, ma anche messicane, che appunto cercano di creare questa connessione. Ecco, Fabrizio, esiste un valore di questi luoghi, al di là, come dire, della simbologia, no? E del valore, chiamiamolo, religioso in senso lato, emotivo anche, perché dalle foto che si spulciano anche in rete si vedono processioni, si vedono frequentazioni, sono diventati quasi delle attrazioni turistiche questi luoghi sacri del male, perdonatemi anche per questa etichetta. Sì, esistono diversi santuari. Allora, la Santa Muerte nasce come culto in realtà già durante l'epoca coloniale, un culto antico, un culto di famiglie umili, che si tramandava appunto di padre in figlio, e soprattutto un culto femminile, le madri trasmettevano queste immagini, le zie, eccetera, queste immaginette proprio della morte, ed era una Madonna tra le altre, come la Madonna di Guadalupe, che è quella nazionale, e poi c'era anche la Santa Muerte, tra i vari santi possibili, quindi è gente che non abbandona il cattolicesimo di per sé, ma che aggiunge un santo più potente e più di protezione in un contesto di violenza e di crisi strutturale alla lista dei santi ordinari, sempre nella clandestinità però, quindi ci sono piccoli altari familiari. Dal 2001 in realtà c'è una svolta nel culto alla Santa Muerte, perché nasce il primo altare pubblico e avviene un'esplosione mediatica, perché è il primo altare per le strade, e questo succede nel quartiere Orione di Tepito, nel centro di Città del Messico, dove la Santa Muerte già era considerata una patrona. Bastava solo l'ultimo passo su questo altare, che è nella via Alfareria numero 12 ed è tenuto dalla donna, diciamo dalla signora Enrichetta Romero, proprio perché suo figlio le regalò questa statua che non ci poteva stare in casa sua, e quindi l'ha esposta fuori, e il figlio ha fatto questo regalo per far uscire un altro fratello di prigione, e da lì è nato il culto pubblico, i rosari tutti i primi giorni del mese, poi migliaia di devoti e la stampa, i media, eccetera. Da qui la tradizione degli altari pubblici è iniziata a diffondersi, se ne contano circa un migliaio a Città del Messico, e molte custodi, in generale donne, si dedicano appunto a curare in tutti i minimi dettagli l'altare, le offerte, eccetera. Per quanto riguarda Malverde, il suo culto è più concentrato nello stato del Sinaloa, che ricordo è l'origine del cartello di Sinaloa, quindi una delle organizzazioni criminali più importanti del mondo per il commercio di droga, il contrabbando, e in particolare nella capitale dello stato, che è Culiacán. Lì si è creato il mito di questo Robin Hood, che si chiamava Jesús Malverde, forse ucciso, non si sa esattamente, nel 1903, perché appunto trovato a rubare, che distribuiva poi questi le ricchezze ai più poveri e le toglieva ai ricchi. E quindi sulla sua tomba, più o meno nel centro della città, vennero poi messe delle pietre e si iniziò un culto spontaneo. Nel 1965, sempre nello stesso luogo, venne costruito un piccolo santuario che funziona ancora oggi. E tra l'altro nel santuario di Malverde di Culiacán c'è anche una statua della Santa Muerte, che poi si è, diciamo, aggiunta alla lista di santi presenti lì, e quindi c'è questa associazione tra una delle capitali più calde, anche dei territori più violenti, con forte presenza del narcotraffico a livello culturale, di narcocultura, e poi a livello pratico, perché lì ci sono le coltivazioni di, diciamo, di oppio, di papavero da oppio, da lì si esporta poi l'eroina, verso gli Stati Uniti, ecco, in questa zona particolare nasce anche un culto particolare. Ed era Fabrizio Lo Russo, giornalista freelance, corrispondente per Il Manifesto, ricercatore universitario a Leon. Io ricordo alcuni dei suoi libri, per esempio Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, e anche Santa Muerte, patrona dell'umanità. Se volete comprendere meglio le dinamiche interessantissime di questo grande paese, non sempre adeguatamente raccontato. Adesso Carmelo Lauricella, i titoli di coda. Quali ringrazio Antonio Tale e Elisa Pancaldi che hanno confezionato questa puntata natalizia di Nessun Luogo Lontano, e il ritmo e la musica che ci è stata data da Carmela Lauricella in regia. Voi naturalmente per essere stati all'ascolto. Vi ricordo i prossimi appuntamenti sono questa sera alle ore 22 per la replica di questa puntata, e domani, giorno di Santo Stefano, vi faremo un regalo dopo lo scambio dei doni, e noi vi racconteremo altri scambi un po' più in stile Nessun Luogo è Lontano. Intanto un saluto, una buona giornata e buone feste da Gianpaolo Musumeci.